Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Come dice ogni mamma, non si parla con la bocca piena. Io invece mangio la banana. Invito tutti a mangiare una banana. In questo momento è per due ore. Magari più di una banana. Un casco. Perché questa storia la trovo... Non mi viene un aggettivo che non sia bellissima, banale. Interessante, non è adatto. Ecco, una mi viene. Rivoluzionario, l'aggettivo è questo. È stato il gesto più semplice e naturale del mondo. Gesto che sto compiendo anch'io contro ogni regola mondiale della radiofonia. E contro il volere di ogni mamma, compresa la mia, non si mangia con la bocca piena. Oggi lo faccio. Perché è stato il gesto più semplice e naturale del mondo, quello di Dani Alves l'altra sera a Villarreal, eppure è stato il più rivoluzionario, più vincente di mille magliette levate con rabbia, di mille palloni sparati in tribuna, dov'era? Busto Arsizio, mi pare, Boateng, di una colata di demagogia, di tanti strepiti, più inutile, molto più utile, di un sacco di curve chiuse, di pastrocchi normativi. A proposito di curve chiuse, guardate, prima di leggervi la notizia finisco la banana, se mi permettete. Allora, questo la leggo con la bocca piena. Inter-Lazio si giocherà senza tifosi in curva nord, che rimarrà chiusa per due turni, di cui uno da scontare nel prossimo campionato. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha sanzionato i nerazzurri in seguito ai cori di discriminazione territoriale contro i napoletani durante la partita contro i partenopei. Cori contro il Napoli, curva chiusa in Inter-Lazio e nella prima giornata del turno successivo. Propongo di invadere la curva con una camion di banane. Intanto sentiamo cosa ha detto il capo dei mangiatori di banane, fondatore di questo partito cui aderisco e cui hanno aderito un po' tutti, perché se aprite i giornali di oggi e guardate le foto, i selfie, una volta tanto mi stanno simpatici perfino i selfie e i twitteristi. Un sacco di personalità dello sport e non solo, poi c'è anche chi ci marcia naturalmente, chi lo fa per apparire, poi ci sono anche, avrete visto, personalità politiche, Renzi che divide la sua banana con Prandelli, eccetera, eccetera. Ma sentiamo il fondatore di questo partito, Dani Alves. Se eu pudesse, eu pegaria a foto dele e colocava público, só para envergonhar ele. Eu acho que banir ele no futebol não é a solução, não. Eu acho que você estaria pagando o mal com o mal. Eu acho que você tem que educar as pessoas. E para ser sincero, me surpreendeu tudo, né? Me surpreendeu tudo e todos, né? Até mesmo porque foi uma ação sem pensar na reação. Eu fui e peguei a banana e se comer, mas sem pensar no posterior. Allora, questo Dani Alves, per chi non capisse il portoghese, brasileiro, io peraltro non lo capisco, confesso. Comunque ha detto il gesto mi è venuto istintivo, ho visto che la banana l'ho presa e me la sono mangiata, della serie La classe non è acqua. Poi ha detto anche: prendiamo la foto di sto tizio, facciamolo vedere così almeno si vergogna. È stato un meraviglioso ceffone a tutti gli idioti che fanno gesti come questo. Per la verità, quel tizio che ha lanciato la banana a Villarreal poco prima del gol, perché il calcio certe volte sa essere anche meravigliosamente giusto, lo sport sa essere meravigliosamente giusto, sul calcio d'angolo battuto in seguito a quell'episodio, il Barcellona ha segnato, lo saprete, il gol del 2-2 per poi andare a vincere 3-2 questa partita e lo tiene in corsa per la Liga. Ebbene, magari non vedremo la foto di quel tizio, però loro signori, quelli che dovevano vederla, l'hanno vista, l'hanno pizzicato, e il lanciatore di banane d'ora in avanti non lo farà più allo stadio, se vuole a casa sua, per strada o da un'altra parte. Però allo stadio non lo farà più, perché non lo faranno più entrare allo stadio del Villarreal. Altro che curve chiuse. Sentiamo dopo il traffico, 800240024, naturalmente parliamo poi di Juventus, di Champions League, di basket, di Sennari, dell'anniversario che ci attende, di un sacco di argomenti, con tanti ospiti, ma soprattutto con voi, perché abbiamo una maglietta da inviarvi, tra l'altro. 800240024, a dopo. Tutti convocati. Sulla seconda è importante che posso dire questa cosa, perché sì, mi aspetto che il Sassuolo gioca come una squadra che vuole salvarsi, no? Che non è stato sempre la cosa per gli avversari che hanno giocato al Juventus Stadium, per esempio. Lo trovo anche una grandissima mancanza di rispetto nei confronti degli allenatori che devono scegliere formazioni, nei confronti dei calciatori che devono scendere in campo. Lo trovo anche rispettoso nei confronti dei tifosi, perché io non penso che i tifosi del Livorno o del Bologna o dell'Inter o chi per esso possa arrivare allo Juventus Stadium e pensare che la propria squadra non si impegna. No, mi sembra un po' nervoso il mio collega, ma non ho niente da dire, perché veramente non è il giorno. Io sono contento di essere qui, anche vedo questa bella città di Chieti, e niente di più. Sul calcio e sulle partite abbiamo tante opportunità di parlare di questo. Sono molto sereno da questo punto di vista. Penso che il nervosismo possa arrivare invece da chi insegue, visto che hanno parlato anche di cultura, di cambiamento di cultura. Io dico che con le dichiarazioni che hanno fatto loro, tra Jutini e squadre che non si impegnano con la Juventus, si abbiamo fatto invece un passo un passo indietro nel passato, perché questa è alimentare la cultura del sospetto. È alimentare la cultura del sospetto, insomma, non ha cambiato idea Conte, nemmeno con lo scudetto quasi. Allora, molti ascoltatori poveri di spirito sulla storia delle banane, ma vabbè, a questo sono abituato, spero che almeno si astengano dal lanciarle in campo. Pardo arriva tra una decina di minuti, comunicazione di servizio. Saluti invece e ringrazio Giancarlo Padovan. Ciao direttore. Ciao. Come ciao, stai? Buongiorno a tutti. So che sei emigrato. Sì, sono in Albania, a Tirana, dove dirigo lo sport di un canale albanese che però presto sarà anche un canale italiano, quindi ci rivedremo anche in terra italica. Anche in terra italica ci conto, oppure in Albania, io vengo a trovarti volentieri. Oppure con grande piacere. La trasferta in Albania in fondo non è molto lontana dall'Italia, solo un'ora e mezzo di volo da Milano, ma dalle coste pugliesi molto meno di un'ora. Certo, e andiamo anche a trovare Gianni De Biasi, tratto da quelle parti. Poi più tardi Gianni De Biasi che è il circuito nazionale. Più tardi, a proposito, sentiremo invece uno che è emigrato in Russia, si chiama Fabio Capello. Questo più tardi però. Senti, vuoi una banana? O la trovi demagogia? Ma allora, io la mangio la banana perché mi piace e perché mi piace allinearmi al gesto che hanno fatto tutti. Quindi non voglio fare sconti ai razzisti. Se questo è il modo per rispondere, rispondo così anch'io. Un po' di demagogia c'è sempre, sì, naturalmente, insomma, sia nel fare che nel rispondere, indubbiamente. Quindi adesso c'è la corsa alla banana e fa un po' ridere, però qualcosa bisognerà pur fare, una qualche risposta che sia intelligente o repressiva o definitiva a questi signori bisogna darla. Allora per ora mangiamo la banana. Sì, però mangiamo la banana e chiudiamo la curva di San Siro, come saprai, per correre razzisti contro il Napoli. Quindi... Però la curva di San Siro voleva la chiusura, la voleva nel senso che lo sapeva, l'hanno fatto di proposito, lo fanno ormai perché strategia non certo, della curva interista, certo, ma di tutte le curve. Ma io credo che ogni chiusura della curva sia ampiamente premeditata, ognuna e ciascuna di essa sia ampiamente premeditata e anche dichiarata in precedenza. Guarda cosa ti dico. Sì, sì, no, ma è di fatto è così, ma perché la guerra, la battaglia, le posizioni, insomma, da difendere sono queste. Cioè, noi siamo i tifosi, noi abbiamo diritto a dire, a fare, non ciò che vogliamo, ma sicuramente gli sfottò, sicuramente non potete toglierci la liturgia, dicono, la liturgia e il linguaggio che ha sempre caratterizzato la curva, quindi se qualcuno ce la toglie, noi protestiamo facendocela togliere in maniera clamorosa. Sì, oppure non ci concedete quello che vogliamo dal punto di vista economico e noi reagiamo modo. Quello però è una cosa ancora più pesante, secondo il mio punto di vista, e non so se rientri nella casistica delle curve da far qualificare, sicuramente rientrava. Vedo di più una strategia serrata, dura, come quella che sta battendo la Lazio e il suo presidente Lotito. Senti, invece, Garcia e Conte, prima su un bellissimo pezzo di John Lennon, Mind Games. Questo Mind Game l'ho trovato anche divertente, doveroso, legittimo, lecito, magari un po' troppo lungo, un po' lunghetto, perché finita la partita era ora di chiudere la storia. Garcia ha usato e userà magari tutte le armi a sua disposizione per mettere un po' di pressione su la Juventus e sui suoi avversari. Ormai la storia è finita, no? Lo scudetto della Juventus, ma questo già da un po', secondo me già dal 6 gennaio. Ma comunque, Conte ha risposto, trovo tutto lecito, legittimo, inutile stare a inorridirsi o a strillare sull'atteggiamento di questi allenatori che hanno adottato la strategia della comunicazione. Però poi non sorprendiamoci, non diciamo che poi Mourinho fa delle cose particolari, può darci che Mourinho abbia insegnato queste strategie, ma ormai tutti ne fanno ampio uso, insomma, sia gli italici sia i francesi come Garcia, e ognuno usa le proprie armi. Io credo che Garcia le avesse un pochino spuntate, nel senso che era tardi ormai per portare una strategia di pressione sulla Juventus, doveva esserci prima e doveva essere un pochino più precisa. Dopodiché dire che gli avversari non si impegnano, secondo me, non è né intelligente né simpatico né veritiero, perché se andiamo a vedere le ultime due partite, cioè due partite di chi è passato dal Juventus Stadium, il Bologna, che aveva bisogno di salvarsi, è stato sconfitto nel secondo tempo dopo un lungo assedio. Nella gara d'andata ancora mi ricordo un Juventus Udinese risolto nei tempi di recupero da Llorente al 93esimo, dopo che l'Udinese aveva sfiorato più volte la vittoria. Quindi non è esattamente vero dire che qualcuno si rassegna alla Juventus e le concede campo e i giocatori. Questo io non l'ho visto e non lo credo più. No, ma più che io magari l'ho intuito, però ho visto parità di trattamento, perché anche delle squadre che sono passate dall'Olimpico non le ho viste esattamente agguerrite. non le ho viste esattamente agguerrite. Però un'ultima cosa invece, lasciami la tua su Bayern Real Madrid, che rischia di essere una specie di guerra di religione calcistica questa partita. Ma perché guerra di religione? Non mi ma sembra perché che... sai, Guardiola e il suo tiki-taka, tanti a dire, ma può essere così l'atto finale di questo modo di vedere il calcio. Ai tedeschi non piace, all'establishment del Bayern Monaco non piace questo modo di giocare a pallone. Dovesse uscire questa sera, insomma, non scommetterei proprio sulla permanenza di Guardiola su quella panchina. No, questo è perfettamente ragione. Hai ragione, perché si è creata però non tanto la guerra di religione quanto una guerra di posizione. Cioè il Bayern è una squadra fisica, è una squadra che ha vinto sempre giocando con la forza oltre che con la tecnica, ma il tiki-taka non le appartiene culturalmente. Esatto. E effettivamente anche nella gara d'andata si è visto il perché. Io anch'io sono perplesso sul fatto che primo che passi Guardiola e secondo se non passa che rimanga. Però insomma in genere il Bayern è una società molto seria. Ricordo che rimase Enkes anche nell'anno in cui non vinsero niente, era l'anno precedente all'anno scorso, persero la finale in casa ai rigori di Champions League, persero il campionato, persero la Coppa di Germania, eppure il Bayern confermò Enkes poi andando a vincere tutto. Non credo che il Bayern si possa permettere, in caso di uscita alla semifinale, di liquidare Guardiola. Certo, Guardiola se perde stasera deve domandarsi che futuro abbia il suo calcio. Certamente. Grazie direttore, grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao. A te, buon lavoro a tutti, un saluto dall'Albania. Ciao. Ciao Giancarlo Padovan. 800 24 00 24, maglietta e magari anche la banana al migliore in campo di oggi, maglietta di tutti i convocati naturalmente. E poi rimane ovviamente aperta quell'altra porta, cioè commentatori per un giorno qui a tutti i convocati in questo studio a parlare di sport, di tutto lo sport che volete, con me, con noi, tutti insieme, con gli ascoltatori, oltre ovviamente alla maglietta autografata da un prestigioso personaggio sportivo a chi invierà un file audio della durata di un minuto, tempi radiofonici dunque, sull'argomento della settimana, che non può che essere il ricordo di Ayrton Senna. Sul sito www.radio24.it trovate tutto. Ci sentiamo dopo la borsa. Io penso che naturalmente noi siamo qua, ognuno di noi, per dire un certo numero di fesserie. Tutti convocati. Nos ha parecido una iniciativa estupenda, y sobre todo primero la reacción que tuvo el propio Alves en el campo de coger el plátano y zampárselo. Y comérselo, genial, sí. Me pareció genial. De verdad. Pero que ya sí. Está bien. Pues me así sumo yo contigo, ahora voy yo a darle al plátano también. Venga, hasta mañana, pareja. Un beso grande. Bueno, pareja no, a todos. Estoy como un poco bipolar, ¿no? ¿Quieres decir? Sí. Salud por todos, ¿eh? Un beso, Marilo. Un besico. Hasta luego. Comienza la mañana. No, venite tutti qui, facciamo un selfie, una cosa. Qua, portate le banane anche a Mughini, la Bate, Auriemma. È poco matura, però. Ma mi salate. Non c'è grande qualità. Ecco, saremmo anche in televisione. Ci siamo tutti, ovviamente, metaforicamente anche a Roma, vi unite al gesto delle banane. Torniamo fra un attimo. Mi raccomando, gesto simbolico importante. Vai. Ecco. Marilo Montero sulla TV spagnola che mangiava in diretta televisiva la banana, io l'ho fatto prima alla radio, Pardo l'ha fatto ieri sera a Tiki Taka. Ciao Pier. Sì, ciao. Ma insomma, sai, più banane per tutti. Costa zero, però sì. È un modo per dire con chiarezza assoluta che siamo da questa parte, siamo dalla parte delle persone normali che amano il calcio e non dalla parte degli imbecilli. Quindi è proprio una cosa, non c'è niente di eroico, non c'è niente di, anzi è anche un po' esibizionista se vuoi, però va fatto, secondo me. E tutto nasce dalla forza del gesto di Dani Alves. Sì, un gesto rivoluzionario, secondo me, eh? Sì, cioè istintivo e rivoluzionario. Ha riportato tutto in una categoria sexy, cioè ha fatto un gesto di una tale forza, di una tale semplicità, che ha fatto capire in 4 secondi dove sta la normalità e dove sta la sfiga. Cioè la sfiga è di quelli che tirano le banane, la normalità è nostra. Sì. Quindi, perché poi no, c'è tutto il moralismo degli appelli, la pesantezza, che per carità sono condivisibili, tutti appelli contro il razzismo, le sanzioni, tutte queste cose. Poi ci sono anche le magliette buttate via, quello che porta via il pallone non gioco più, e poi ci sono anche tutti scene molto più eclatanti, che però in realtà hanno molto meno impatto rispetto alla semplicità involontaria, credo, di Dani Alves. Sono d'accordo, l'efficacia di quel gesto lì è stata quella di ricordarci chi sono gli sfigati, loro, ma non loro, sono quattro gatti sfigati che pensano ancora che ci sia la superiorità di una razza su un'altra, figuriamoci, che razza è superiore, Roma Nord o Roma Sud, Villa Ada, Piazza Vescovio, ciao, saluto le persone per strada, ecco, capito, la forza vera è questa qui secondo me, quindi Dani Alves è stato bravissimo e non è un caso che questa società ormai mediatica, i social network, tutti ci siamo lanciati su questa cosa, l'abbiamo fatto, credo e spero, con il cuore, proprio per dire una cosa semplice, che non ci sono poche chiacchiere, eroismi. Ma poi Pier, anche una sana presa, anche basta stronzate, Piero di me. Sì, anche una sana presa in giro nei confronti del lanciatore, perché cioè poi Dani Alves ha detto facciamogli vedere la faccia che si vergogna. Intanto l'han preso, non entrerà più allo stadio del Villarreal. Questo è ciò che ho letto. Questa è la cosa più seria, più importante. Stiamo aspettando ancora. Mentre la curva dell'Inter verrà chiusa per due partite, al netto delle banane, io riempirei quei settori di oggetti gialli, eh? Facciamo così, nelle partite con la Lazio la prima della prossima stagione. Secondo me è molto più evocativo quanto è successo a Villarreal di questo provvedimento ormai normale, del banale quasi, del giudice sportivo. Prima di Matteo da Trento invece, dimmi la tua, al di là delle banane, su una Juventus che ha chiuso in modo quasi simbolico il discorso titolo, questa querella, questo bisticcio a distanza forse anche leggermente troppo lungo adesso, perché la replica di ieri sera di Conte secondo me non ci stava. Ebbene, l'ha chiuso in maniera quasi emblematica, no? 0-1 sotto di un gol, specchio delle difficoltà della Juventus del momento, sotto il diluvio, sotto l'acqua. Poi arriva Tevez, cioè il solito pulitore, te lo ricordi il pulitore? Sì. Salve, sono il pulitore, finita risolvo Tarantino. risolvo problemi. Poi il principino Marchisio che si è arreso ad una stagione tutto sommato da comprimario, da panchinaro se vogliamo, ma rappresenta la juventinità. E infine il torero Llorente a infilzare lo scudetto. Sì, assolutamente, volevo sottolineare l'assist metafisico di Pirlo sul gol del 2-1, che è una cosa che va oltre proprio è l'iperuranio, no? Stiamo parlando di categoria dello spirito, l'intuizione di quella cosa lì di Pirlo è qualcosa di incredibile. Ma sì, insomma, la Juve è riuscita ieri, secondo me, a rendere epica, o comunque abbastanza epica, una vittoria a Reggio Emilia col Sassuolo, con tutto rispetto per il Sassuolo, ricordiamo, grande in bocca al lupo, fate le battute. Per carità. Per carità, grandissimo. No, ma il Sassuolo in realtà delle 5 squadre della lotta salvezza mi sembra quella un pochino più sveglia adesso, no? Un pochino più carica. E ieri ha cominciato la partita molto bene, ha trovato il gol del vantaggio, la Juve si è svegliata e è venuta fuori la qualità, è venuta fuori la capacità di risolvere i problemi di questa squadra. La differenza tra Juve e Roma nella stagione è una differenza alla fine di dettagli, però è una differenza importante e significativa, che sta nel fatto che la Juve tante volte e molto più spesso ha risolto le partite magari negli ultimi minuti, ha risolto delle situazioni complicate, ha trovato delle soluzioni. Poi è evidente che insomma con i punti della Roma lo scudetto in qualsiasi altro paese sarebbe assicurato, basta guardare per esempio il campionato inglese, invece c'è l'equilibrio un po' di Chapanò. Sì. Però insomma io credo che la Juve se lo meriti e credo che ieri abbia fatto una strada molto simbolica di quella che è la sua forza per per raccontare questa storia. Beh, è chiaro che adesso un punto tra Atalanta in casa, trasferta a Roma, e qui avremo un capitolo a parte, tra poco lo affrontiamo anche, quella partita che probabilmente non vorrà dire niente sul piano del risultato finale, anzi certamente non vorrà dire nulla sul piano del risultato finale, della classifica eccetera, però avrà un alto valore simbolico secondo me, e la Roma farà benissimo per organizzare, per concretizzare una festa che merita in tutto e per tutto, farà benissimo a dare l'anima per battere la Juventus sul campo. E poi l'ultima partita, vabbè, la Juventus è in casa al Cagliari, la Roma al Genoa, ma lì i giochi saranno già fatti da un pezzo. Matteo da Trento, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno. Eccolo là. Ciao. Dica. A tutti. Io sono un allenatore del settore giovanile scolastico, e quello di Dani Alves è stato un grandissimo spot, non solo per il calcio, per l'umanità, perché è stato veloce, istintivo e grande come messaggio, perché io alleno i ragazzi, ogni anno ne ho di varie etnie, religioni, usi e costumi, colori di pelle eccetera. Con i ragazzi c'è pochissimo il problema del razzismo, spesso è sugli spalti, genitori o chi viene a guardare, addirittura dirigenti o allenatori di altre squadre. E quello di ieri di Alves è stato uno spot per le scuole calcio, ma proprio per i genitori o per chi ci va a guardarli, insomma. Sì, è stato un grande sberleffo nei confronti di un sacco di ignoranti, come chi scrive: ma voi avreste il coraggio di prendere un casa in un quartiere invaso di marocchini? Che c'entra il marocchino? Io avrei paura a vivere in un quartiere invaso di camorristi malavitosi, di che poi siano marocchini o milanesi o trentini, insomma, mi sembra la stessa cosa. Sì, no, ma poi soprattutto voglio dire, è chiaro che fare questo gesto qui, essere solidali con Dani Alves e pretendere il diritto che le persone vengano giudicate per la purezza del proprio cuore, l'intelligenza, le qualità, e non per la loro provenienza, non vuol dire poi negare che possano esistere in determinati momenti, in determinate storie, delle situazioni complicate, dei problemi di ordine pubblico, certo, dei flussi migratori che magari devono anche essere regolamentati. Cioè, questo ma è un discorso politico generale. L'intelligenza sta in questo, secondo me. È quello che sto dicendo. Ecco, anche io avrei. Vi do una notizia: che se noi italiani dovessimo essere giudicati per alcune etichette che ci siamo portati in giro, saremmo un popolo chiaramente di geni, di artisti, di poeti, ma anche di malavitosi, no? Cioè, nel senso che noi non ci possiamo permettere di applicare alle persone di altre parti del mondo gli stereotipi in maniera becera, perché se no ci potrebbero dare dei mafiosi a vita. Allora, siccome invece, chiaramente negli italiani, come in qualsiasi altro popolo, c'è tutto, no? C'è la genialità, c'è la grandezza, c'è la persona per bene e c'è il delinquente, come in qualsiasi altro popolo della storia. Il razzismo diventa una enorme cazzata. Sì, semplicemente è un approccio laico alla questione. Io avrei abbastanza paura ad acquistare una casa in un quartiere invaso da ultra, quello sì, di quello avrei abbastanza paura. Di quelli che lanciano le banane o altro. Luca, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo per segnalare sostanzialmente che oltre al ventennale della tragedia di Senna, domenica ci sarà il 65esimo della tragedia di Superga. Uh-huh. E pertanto volevo un parere da voi su cosa ne pensate del fatto che la federazione non abbia consentito spostare la partita del Chievo-Torino, che sarà in concomitanza con le varie funzioni. Secondo me è stata una mossa piuttosto inelegante, questa del mancato raccordo tra le due cose. Lo sappiamo benissimo che ci sono esigenze di calendario, che gli allenatori si arrabbiano, che ci sono le coppe, eccetera, eccetera. Però qualche volta un minimo di elasticità in certi casi potrebbe essere auspicabile, non viene normalmente utilizzata, non lo è stata nemmeno in questo caso, e insieme a lei mi dispiace, con lei e con tutti i tifosi di Granata sono dispiaciuto. Tutti convocati. El partido de Dortmund todavía está ahí anclado, todavía está ahí como un fantasma o... è motivo también como para alinear otra vez un catenaccio. Catenaccio no es una mala palabra, no es una palabrota. Mister, volviendo también a unas palabras de Guardiola que dijo justo hace una semana cuando acabó el partido de ida, que definió al Madrid como un equipo de atletas más que de futbolistas. No sé cómo le sentaron esas palabras, si cree que es algo peyorativo o es un halago, y cómo las analiza. No, no creo que fue una que fuera una palabra despreciativo, porque creo que es verdad, tenemos atleta de gran nivel, futbolista de gran nivel, con un alto nivel físico, esto es normal de ver. No somos tan tontos de pensar que hemos ganado, porque no es la verdad. Es un partido muy difícil. Rumaní que ha dicho que van a arder los árboles, está lloviendo, entonces en el fútbol puede cambiar todo muy, muy, muy pronto, ¿no? In queste partite c'è un'altra cosa che va al di là di giocare bene e male, la tattica, la grinta, il difensivo, l'offensivo. C'è un'altra cosa, che quando tu calci a porta, quel calcio c'è dentro la tua testa, voglio cazzo essere in Lisboa. Questa è la differenza in questa partita, tutto rimane lì. Quando uno difende un contropiede, quando uno difende un cross, quando tu difendi quello, dico io lo difendo perché voglio essere in Lisboa. Questo è lo che manca, la differenza in questo tipo di partite. È la passione, il desiderio di ancora vivere una situazione così unica come una finale di Champions. È quello lo che marca la grande differenza in queste partite. Allora, abbiamo sentito tutti e due Ancelotti dire, ma catenaccio è mica una brutta parola. Per noi italiani non è una brutta parola. Poi è chiaro che sarà difficile, bla bla bla. E beh, Guardiola, discorso motivazionale se ce n'è uno. Luca Valdiser, inviato del Corriere della Sera, proprio a Monaco di Baviera. Ciao Luca. Eccomi, buongiorno. Pier, ci sei, vero? Sì, sentite, sì, sentite, sì. Guardiola, sì, l'avevo sentito. Bello io carico. La stampa, quella del post partita di Real Bayern, l'avevo sentita, e secondo me un po' di dispregiatività c'era, nel senso che Guardiola era abbastanza nervoso, ha fatto un po' un pippone sul fatto che il Real Madrid da sempre è una squadra che gioca il contropiede, è una squadra di atleti, di calciatori, e quindi secondo me Ancelotti o ha fatto finta di niente oppure intimamente non ha pensato male, però secondo me nel ragionamento di Guardiola c'era questo elemento qui. Solita sì. Distinzione culturale abbastanza oziosa tra calcio propositivo e calcio di speculazione. Sì, che mi sembra un discorso abbastanza di retroguardia. Ormai, anche se è estremamente attuale, perché Luca Valdiseri, quella di stasera, che è la gara 2 della partita più bella del mondo, perché onestamente queste due sono le più belle del mondo, rischia di diventare una specie di confronto religioso, stiamo ovviamente parlando di calcio, tra due modi diversi di vedere questo gioco. Un Guardiola sempre più estremista nelle sue scelte, e per questo non piace tanto all'establishment del Bar di Monaco, e Ancelotti che dice, oh, noi giochiamo così. La contaminazione al Real tra le mie idee e i giocatori che ho funziona. Pensa che cosa succederà se andranno in finale Guardiola e Mourinho. Tutto questo che stiamo dicendo adesso sarà moltiplicato per 10. Sì, ma tu come la pensi? Sì. A proposito di questo discorso filosofico, no. Io penso che in questo momento, per usare una parola storica, c'è molta restaurazione nel calcio. Cioè, fino a poco tempo fa si esagerava magari nel presentare il Barcellona, il calcio totale, il tiki taka, il possesso palla, chiamalo come ti pare, come la nuova via del calcio. Adesso invece sembra che non è catenaccio la brutta parola, sembra che sia possesso palla la brutta parola. Tant'è che probabilmente l'Atletico Madrid vincerà il campionato in Spagna. C'è caso che, insomma, essendo 3 su 4 una squadra che non fa possesso palla o non lo fa con continuità possa vincere la Champions League, per cui Guardiola credo si senta un po' assediato. In più c'è anche il fuoco amico all'interno della sua stessa società, per cui secondo me questa sera, se non il rischio della fine di un'idea di calcio, in caso di sconfitta del Bayern ci si può andare abbastanza vicini. Sì, anche perché è interessante il discorso dei custodi del tempio del Bayern, a cominciare da Beckenbauer, che non gradiscono tanto questa contaminazione così pesante della squadra. Oh, noi siamo il Bayern Monaco, abbiamo la nostra filosofia, la nostra cultura, abbiamo vinto, guardate là cosa abbiamo vinto. Insomma, essere così diversi da quello che siamo sempre stati non ci piace poi molto. Ti piace questo discorso? Però mica, no? Sì. Però mica gliel'hanno dato per sorteggio, Guardiola. No, anzi. Sono andati a prendere. Anzi, non solo, non gliel'hanno dato per sorteggio, certamente, e hanno esautorato l'allenatore che avevano prima, che incarnava invece esattamente la filosofia del Bayern di Monaco, a gennaio. Fosse successo dalle nostre parti, sai il casino. Questo invece ha vinto tutto. Pardo. Sì, io non credo che possa essere. Io credo nei gol e semmai nelle palle gol. Cioè, credo che alla fine l'unica misura che può avvicinarsi, cioè l'unico premio della critica unito al risultato del campo, che poi è la cosa più importante, quanti gol ha segnato, la fatti di più e di meno del tuo avversario, possa essere nelle palle gol. Il possesso palla per me è un dato assolutamente inutile. Poi certo, è chiaro che se tu vivi tutta la vita di riflesso, di barricate, ti può andare bene una volta, ti può andare bene due volte, ma insomma è difficile che tu possa costruire una grande squadra, un grande ciclo. Ma il possesso palla da solo basta. Real Madrid-Bayern è stata una partita dove il Real ha avuto il 35% di possesso palla, addirittura del 27% alla fine del primo tempo contro il 73% del Bayern. Però ha vinto meritatamente, perché se io conto le palle gol ne vedo almeno 4-2, 4-1 a favore del Real, e quindi arrivo a dirti che 1-0 è quasi un risultato troppo magro. Sì, ma se queste palle gol le fai aspettando l'avversario, utilizzando, cioè Real ha fatto una stagione, Real ha fatto 140 gol in questa stagione, è difficile dargli dei difensivisti, dei catenacciari, è assurdo. Allora poi se il tiki-taka deve diventare, fa abbastanza ridere visto il nome del programma che conduco, ma insomma io la penso così, e se il tiki-taka deve diventare un modello oltre il quale non c'è nulla e tutti quelli che non giocano una ricerca ossessiva del possesso del tiki-taka, non è guardare i passaggi l'obiettivo del gioco, non è palla avvelenata, ma assolutamente stai, però, dove più stai con assolutamente che corre, no, ma anche perché il possesso palla sotto ritmo in quel modo lì io lo trovo abbastanza noioso, ma è sempre stato così, poi non si tratta di fare i fighi. Io siccome penso che il calcio fino obiettivo sia arrivato alla finale, se quel possesso palla lì è strumentale, è funzionale per ottenere il risultato, allora va benissimo. L'altro giorno Ancelotti, l'ho già detto l'altro giorno, insomma, in quella conferenza stampa, incalzando i giornalisti spagnoli, ha detto, si è quasi dovuto giustificare dicendo che non ho niente contro il possesso palla, anzi, mi piace avere il possesso del pallone, perché come dicevo, se il pallone ce l'hai tu, non ce l'hanno gli altri. Cioè, sicuro. È chiaro che il possesso palla è una bella cosa, non è che sia ma non è il male assoluto, no, così com'è. Cioè, non è una brutta parola, così come non è una brutta parola catenaccio. Un'ultima cosa con Luca Valdiserri: cosa cambieranno questa sera? Beh, Ronaldo starà un po' meglio, immagino, rispetto alla partita d'andata, quando era secondo me al 30%. Ma quello che, vista la configurazione delle due squadre, rischia di far saltare il banco è Bale. Sai, Bale ti porta ad avere una squadra ancora più sbilanciata rispetto a Isco, per cui è anche chiaro che il Real Madrid, se segna un gol, probabilmente pensa di avere sfangato, perché dovrebbe prenderne tre, non è semplice. Secondo me la vera variabile può essere se Guardiola gioca col centravanti oppure senza, insomma, se gioca Mandžukić o gioca Thomas Müller centravanti. Quella può essere, credo, la mossa che deciderà la partita. Poi è chiaro, il Real Madrid in tutta la stagione non ha fatto gol solo in tre occasioni, per cui è molto probabile che un gol lo faccia. Sarà al Bayern fare la partita, non dico perfetta, ma una partita da tre gol non è semplice da fare. Sì. Insomma, io penso che Piero ha ragione quando dice che il possesso palla da solo è sterile, però io credo che l'Ajax di Mikkels, il Milan di Sacchi e il Barcellona di Guardiola siano squadre che sono rimaste nella storia, di squadre brave che facevano la velocità, il contropiede, chiamalo come ti pare, la ripartenza, ce ne sono state tante, alcune fenomenali, però Io sto con quelle tre che ti ho detto prima, se proprio devo scegliere. Con quelle tre che hanno fatto grosso modo la rivoluzione. Grazie Luca Valdiserri, noi ci fermiamo per il giornale radio, ci teniamo incatenato Pierluigi Pardo, che offriamo nel frattempo una banana, e torniamo appunto per un'altra ora insieme dopo. Però rigore quando è? Quando arbitro fischia. Oggi Paradox è piovuto spumante. Sì, prima ci pioveva acqua, poi per fortuna e anche per nostro merito c'è stata una grande festa, incredibile, bellissima, però credo anche meritata per tutto il percorso che abbiamo fatto in Euro Challenge. Portate le banane anche a Mughini, Labate, Auriemma, è poco matura però. Ma bisogna, non c'è grande qualità. Ecco, saremmo anche in televisione, eh? Ci siamo tutti, ovviamente, metaforicamente anche a Roma, vi unite al gesto delle banane. Finisce qui il primo tempo. Convocati. Mi piace molto Saveglia, Saveglia, non te la veglia, te capito. No podés ser tan notario, te olvidaste de Carlito. Tanto tiempo, tantos años, presiento que si te ves al espejo, mucho te has de lamentar haberlo dejado lejos. Però dispiace vedere un Tevez così, che segna davvero così tanto in campionato, che è tornato a segnare in Europa e che insomma non è sicuro di andare ai mondiali. No, como he hablado de eso con otro colega, yo pienso de que, como ha dicho el entrenador de la Nacional, no ve la Juventus, ¿no? Ve otra escuadra, no la Juventus. Franco Beltranini, autore di questo programma, ci teneva molto a questa canzone. C'è anche Claudia Schiattone oggi in redazione. So che ti piace molto, Pardo? Sì, sì, guarda. Struggente. Un senso di penny che è provvidotti. Senti, ma tu che sei dell'ambiente, ma si può regalare un decoder a Saveglia o no? Bueno, Saveglia puede poner el tiki-tac sobre Italia 1 y siempre vamos con clips de TV sin ningún problema, Saveglia. Nosotros esperamos por ti de llamar TV por la selección, Sí. Con Albi Celeste. Ma el decoder glielo regaliamo o no? Non ho capito. Ma claro, no tiene problema. Tu che sei dell'ambiente, dai, regalagli il tuo. Mettici una buona parola, almeno Saveglia bueno, potrà vedere del partito del campionato italiano. Il signor Blacchino o il signor Leonardi, il direttore, no, della giornata della relazione, e sicuramente adesso chiamo, appena stacco chiamo, perché no, questa cosa di Saveglia è veramente incredibile, anche se poi non bisogna mai dimenticare che la realtà del calcio argentino è, dal punto di vista degli attaccanti, è incredibile. Cioè, è chiaro che noi Tevez, io andrei domani dove, all'anagrafe, andrei a fare un passaporto subito a Tevez, sì, anche falso, ecco. Volendo, ma sì, anche tarocco risulta come un fratello. Dopo Vidal Pardo facciamo anche Tevez Pardo, perché mi sembra un giocatore che ci sarebbe estremamente utile. L'Argentina ha una situazione un po' diversa, insomma, sicuramente ha una concorrenza superiore. Detto questo, insomma, non convocare la Pascia al mondiale mi sembra, sì, poi soprattutto provinciale. No, ma poi dopo questa stagione, onestamente, dopo questa stagione, uno dirà: vabbè, ha segnato l'altro giorno in Europa, non segnava in campo internazionale da 6.000 anni. Ma fa felice il fantacalcio dopo 12 anni. Ma perché? Mai... Il che, vabbè, dai, decoder a Saveglia. Se hai bisogno, metto dei soldi per il decoder a Saveglia, eh? Tanto ne pago già un sacco. Decoder, il passaporto, vamo mangiare all'anagrafe Torino, ma dove andiamo? A Torino? Allora, andiamo a Torino. Ma se, sì, magari. No, Torino va bene. Direi che Torino va bene. Si può ottenere. tanto c'è Gianmarco Ferronato in regia, ci sono due ascoltatori in linea, Paolo da Parma, Cristiano da Napoli, parliamo con loro anche perché te l'hanno mandata la maglietta di tutti i convocati? Ce l'hai? Stanno per arrivare, però io sono ora vado a Londra farà il partito di mañana, infatti domani ci sentiamo da Londra. Uh-huh. Per Chelsea Atletico e non mi è ancora arrivata, l'ho vista. No, neanche a me, l'hai vista? È un oggetto di culto. Non me la danno, ne parlano nei bar. Io lo dichiaro pubblicamente, anzi, chi la vince, per favore, me la fa provare. Questo è un appello pubblico che faccio. Paolo da Parma, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno gente, buongiorno Pardo. Dica. Buongiorno a tutti. Volevo parlare della partita di questa sera. Perché ho amici io che sono a Monaco, sono stato a Monaco anche per lavoro, ho amici commercialisti là e tedeschi, e adesso io non sento mai dire da voi, può darsi che voi non abbiate voglia di dirlo, magari che siate coperti dal coso, ma quello che io so dalla piazza di Monaco è che il tempo di Guardiola è finito, adesso che la stesso pubblico di Monaco, se la gente di Monaco, questi miei amici con cui parlo, mi dicono che sì, loro hanno molta stima, hanno molto amore per Guardiola, amore nel senso lo stimano, ma non è il loro allenatore, non è il loro, questo non solo la dirigenza, ma anche il pubblico, anche lo spettatore, insomma. La notizia che c'è a Monaco è che c'è un allenatore italiano che loro considerano. Che voi probabilmente lo sapete anche adesso. Sì, no, ma se lo sappiamo, ma può fare quello che vuole, ma quello che noi sappiamo lo diciamo, io glielo giuro. A Monaco, sì. E che secondo me potrebbe essere la piazza giusta per il suo gioco che fa. Sarebbe perfetto. È Conte. È Conte della Juventus, che è lui, è quello che la dirigenza mi dicono, questi amici. Allora Paolo, premesso che posso finire? Un attimo, sì, veloce, perché però sono Mentre Guardiola, guardate, appurate bene, ma sembra che abbia un contatto con il Milan. Questo è quanto. Ah, Conte al Bayern Monaco, Guardiola al Milan. Io penso che naturalmente noi siamo qua, ognuno di noi, per dire un certo numero di fesserie. Con la Pay TV, un grosso giro, e lui ha bisogno di un grosso nome nella sua squadra. Pardo, ne sai qualcosa? No, allora, Conte al Bayern, allora innanzitutto non mi risulta che ci sia, così drammatica la situazione tra Guardiola e Bayern. Sicuramente c'è Beckenbauer che qualche frase, diciamo, non particolarmente lusinghiera gliel'ha detta. C'è anche da dire, ecco, questo mi risulta, che non sempre Beckenbauer venga vissuto come, insomma, come l'oracolo di Delfi. Certe sue frasi vengono viste come delle provocazioni, non come non come la cassazione, insomma, quindi non è detto che ci sia poi una rispondenza tra quello che dice e quello che succede. E dal punto di vista culturale posso essere d'accordo, però ripeto, stiamo parlando di discorsi un po' astratti, perché comunque il Bayern ha vinto il campionato con 7 giornate in anticipo, 7 svite. Era marzo, c'era ancora la neve per terra, eccetera. A Berlino. Adesso vediamo la stasera, ma insomma parlare di fallimento mi sembra. Per quanto riguarda invece il giro di fantamercato, Conte al Bayern, assolutamente sì, nel senso che Conte è certamente un allenatore che gioca un calcio in qualche modo assimilabile a quello del storico tedesco, no? Un calcio di grande intensità, un mix di fisicità e tecnica, quindi si sta bene. Guardiola al Milan, la vedo duretta, dai. Nuovi capitali, partnership con Berlusconi oppure con una nuova società, allora sì. Vabbè, allora vale, a quel punto vale tutto. A quel punto varrebbe tutto, in questo però. Momento Guardiola al Milan, mi sembra, se non c'è un cambio societario e non c'è un investimento di X milioni, ma tanti, Guardiola non mi sembra un nome. No, non c'ho i soldi per mettere la benzina, compro la Ferrari. Il senso è questo, non ci sono le condizioni attualmente per ingaggiare Guardiola al posto di Seedorf, che certamente invece andrà via, e questo lo sanno anche i Sassi. Un'ultima cosa, Pier, poi ti saluto, ti lascio andare a Londra. Ma a te risulta che ci fosse una corrente che intenzionata all'interno del Milan, intenzionata a sollevare Seedorf dall'incarico prima del derby, ed è stata questa la ragione della sua uscita mediatica, della sua intervista non autorizzata? Non mi risulta che ci fosse, ma non posso escludere che Seedorf l'abbia pensato. Io credo che nella scelta di Seedorf di dare quell'intervista domenica, stiamo facendo la questione come se fosse sì. Però insomma c'è sicuramente un tentativo di spariglio, no? come a favore scientifico, un meccanismo. Chi conosce questo gioco sa, no? Che siamo, si appariglia e si spariglia, per cambiare le carte in tavola, perché evidentemente il giro del fumo non gli sta a 300. Quindi che lui abbia provato a fare questa cosa non ci sono dubbi, che non abbia funzionato anche, cioè credo che la cosa abbia portato più danni che... Ha certamente fatto danni, però chiarito a tutti come sarà divorzio sì, ma non consensuale, quindi mi è sembrato una tappa di un processo di divorzio che si farà comunque, e Schäfer ha detto accanisce un effetto, guardate qua. Contrattino di 2 anni, non è che ho butto via, non è che diamo al sorcio, questo qua me lo tengo in tasca, se poi non mi volete più mi pagherete di conseguenza, quindi... secondo me Seedorf ha voluto chiarire questo. Pier, grazie, sentiamo domani da Londra, ti abbraccio. Ciao. Cristiano Napoli, buongiorno. Mister Genta, volevo salutare pure Mister Pardo. È andato. Comunque volevo sapere una cosa, per l'antidoto nostro, per quanto riguarda questi cori razzisti, che dobbiamo fare noi? Venite allo stadio con le fiaccole in mano? Che senso? Noi napoletani, perché dicono lavali col fuoco. Mentre quelli buttano le banane, noi che facciamo? Andiamo con le fiaccole? No, lasciamo stare le fiaccole, sarebbe il caso di lasciare stare anche sti cori. Secondo me, guardi, continuo a pensare che il modo migliore per disinnescare, ma sto parlando in generale, per disinnescare questa roba sia proprio quello dell'ironia. L'ironia che ha usato l'altro giorno Dani Alves, volontari, involontaria, un colpo di genio, una magata, un colpo di classe. Però il modo per disinnescare questa roba sia proprio quello dell'ironia. Abbiamo sentito prima anche Toir dire in inglese, ma non è razzismo e discriminazione territoriale, hanno provato a spiegargli la lezione e lui ha provato a ripeterla. E ha raggiunto Dario Ricci, con cui tra poco parliamo. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo. Ma io volevo rilassarmi per un'ultima volta, credo, al discorso anche sugli acquisti della Juve e sulla diatriba che c'è stata tra Conte e Garcia. Io credo, e non parlo per partito preso, ma credo che ci sia la cattiva abitudine di quando la Juve soprattutto vince, le altre squadre guardano sempre nel piatto del vicino. Mm-hmm. Cioè guardassero un attimino nel loro piatto, che forse sarebbe meglio, ognuno di noi ha le proprie magagne. E una squadra che vince a Madrid succede che c'è una standing ovation quando una squadra vince. In Italia invece c'è sempre la dietrologia che... Anche questo non è esattamente vero, cioè non è che in Spagna negli ultimi anni, soprattutto quando c'era Mourinho allenatore del Real, e c'erano i confronti tra Real Madrid e Barcellona, si lanciavano i fiori da una parte all'altra. Io non l'ho detto molte volte, non enfatizzerei questo mind game. Bellissima prima la canzone, abbiamo sentito, esemplificativa, di John Lennon, mind game tra Garcia, che prova a mettere pressione sulla Juventus e sul suo avversario di turno, e Conte che risponde. Quindi entrambi hanno giocato la loro parte, il loro ruolo, e lo hanno giocato come dovevano fare. Adesso ci sono delle code che secondo me sono non necessarie, non richieste. In questo gioco del tutto lecito, del tutto legittimo, mediatico, intorno alle ultime, all'assegnazione dello scudetto, questi ultimi punti che si giocano, poi basta, non, anche in questo non ho ravvisato peccati, non ho ravvisato parolacce. Non è stata neanche pronunciata la parola catenaccio, mi pare, tra i due, mi sembra. Chiedo conferma a Franco Piantarida. Catenaccio non è stato detto, quindi niente, non ci sono peccati da andare a confessare. No, ma al di là di quello, trovo del tutto legittima la posizione di Garcia e quella di Conte, la difesa di Conte. Hanno fatto bene entrambi in questo minuetto a distanza. Ciao Dario Ricci. Ciao Carlo, grazie per avermi convocato. No, grazie a te, e grazie soprattutto perché il 1° maggio... Sì. A quest'ora più o meno, sì, 15.30, sì. Andrà in onda uno speciale che Dario Ricci ha curato sul più grande di sempre per me, tra i piloti della Formula 1. Sì, non sei l'unico a pensarla, trovi anche in me piena concordanza, Ayrton Senna. Ayrton Senna, cosa ci racconterai in questa mezz'ora di speciale? Ma su Senna sappiamo molto, molti stanno scrivendo, ci stanno raccontando i dettagli di quell'ultima notte, di quel terribile fine settimana, insomma molti retroscena. Ecco, quello che vogliamo invece raccontarvi in quella mezz'ora è un legame davvero particolare, soprattutto quest'anno, il legame che c'era tra Ayrton e la Seleção. Ayrton e il Brasile del calcio, perché Carlo lo ricorderai, 20 anni fa il Brasile era molto diverso da quello di oggi, non era certo un'economia rampante, era un paese con ancora con tradizioni ancora più forti, e soprattutto il Brasile dello sport era Senna. Sì. Non era la Seleção, perché la Seleção ha preso gli schiaffi dall'Italia di Berzotto nell'82, nell'86 in Messico addirittura il Galinho Zico ha fallito il rigore decisivo contro la Francia. Neanche a parlarne di quello che era successo nel 90, no? Con eliminata dalla coppia Caniggia Maradona. Ebbene, si dice i brasiliani del calcio ammiravano a loro volta Senna. Quindi andiamo ad esplorare questo legame, perché c'è stato ci fu un incontro nei mesi precedenti di quel maledetto fine settimana di Imola a Parigi, in cui Senna e la Seleção si incontrarono in un albergo e strinsero un patto, quello di festeggiare insieme il loro quarto titolo mondiale. A Imola Senna scomparve, andò via, e quindi mancò, tra le altre cose, anche quell'opportunità di inseguire quel quarto titolo che invece il Brasile del calcio conquisterà, sì, contro l'Italia di Baggio. Abbiamo trovato un protagonista di quel legame, Claudio Taffarella, no? Sì. Di Vincodino, che spara. Lo conosciamo bene. Sì, spara alle stelle quel calcio di rigore, e Taffarella alza le braccia verso il cielo. E proprio lui ci ha raccontato di questo incontro di Parigi con Ayrton Senna. Sentiamola la sua testimonianza. Ricordo molto, molto bene ancora che abbiamo fatto un amichevole a Parigi, e lui è venuto in nostro albergo e parlava con noi così come se già conoscesse a tutti, sai, in una semplicità, e tutti noi eravamo così, sì, guardavamo lui come il nostro eroe, perché sai, era uno che un altro esporte, però dentro del suo esporte, dentro della sua vita era sempre un punto di riferimento, era un esempio, come si comportava, come lottava, come si preparava sempre per quelle sue forze. Quindi per noi stare vicino a lui era sempre una cosa molto bella, e in quell'incontro lì siamo veramente, sembra che diventati tutti amici suoi, e quindi volevamo sì festeggiare insieme con lui, volevamo che lui anche vincesse. Allora il pensiero subito è venuto, sai, di fare così un omaggio veramente di tutto il cuore così a lui, che è stato sempre il nostro campione. Eh sì, perché poi è andato alle stelle quel rigore, sì, coppa al cielo per i brasiliani, e spunta questo striscione, no? Tetra campeão, dedicato sia al Brasile del calcio, ma dedicato anche a Ayrton Senna. Anche poi, Ayrton, sai, Senna. È uscito anche ieri en passant questo discorso, sai, tutti abbiamo fermato nella memoria il momento in cui ci fu quell'incidente a Imola. Ognuno di noi si ricorda esattamente che faceva in quel giorno, cosa stava, con chi era, cosa stava mangiando. Tu che facevi quel giorno? Stavo guardando il Gran Premio. Stavi guardando il Gran Premio. Incredibile, no? Non ci volevi credere, no? Perché poi il sabato era stato quello di Ratzenberger. Sì. Ma poi dici al più grande di tutti, no. Cioè, tutto, no, ma non tutti. Non lo accetti, non lo accettare. Lui no. Invece, sai, è stato uno shock per non solo per i brasiliani, per Taffarella, per la nazionale, è stato uno shock per tutti quanti, per tutto il mondo, perché era davvero un personaggio talmente trasversale da essere amato anche da chi dorme con la bandiera o il cavallino in fianco al letto. Francesco Firenze, buongiorno. Ciao Carlo, se mi dai l'ok, convocato dalla pit lane. Convocato dalla pit lane, ma come no? Ci mancherebbe. Senti, volevo mandare un saluto da Ayrton, logicamente. E poi volevo riprendere questo discorso che hai appena fatto con Ricci, che anch'io ero piccolino quando successe la cosa a Senna, ma mi ricordo indelebile quello che era a fare, insomma, quindi è proprio vero. E che facevi? Cosa facevi? Ero piccolino, avevo 9 anni e mezzo, giocavo alla polistiro, facevo Prost e Senna, perché Prost se l'hai ritirato. Lo ricordo, ieri mi hai fatto tornare in mente, ma mai scioccato la giornata quando me l'hai fatto io, tornare in mente. Mi spiace, che devo fare? Figurati, cioè, stai con noi però il 1° maggio, perché te ne sciupiamo un'altra di giornata. Beh, insomma, ti posso rubare un altro secondo solo? Dimmela, dimmela. E poi senti, so che sei un professionista anche te, Marquez sta facendo faville, come guida quel ragazzo fa veramente divertire. Sì. Tutto qua, vi lascio. Propongo l'intervento da Paul Strada, secondo me va troppo forte. Io ha telefonato dal Mugello lui, no? Ha telefonato dal Mugello, dalla scarperia. Tra l'altro Mugello 2 giugno, tutti a Mugello a vedere Marquez che bastona tutti un'altra volta, a meno che non venga arrestato per eccesso di velocità, l'autovelo si venga mal di pancia. Sì, però lo devono prendere. Sì. Per fermarla quella moto. Valentino ha detto speriamo che si perda cercando l'autodromo. Cioè, può succedere giusto queste cose qui, non c'è nessuna chance per nessun altro, quindi ho l'impressione che siamo al dominio totale. Vabbè Dario, quindi ti aspettiamo primo maggio alle 15:30, ci regali una mezz'oretta di tutti i convocati, speriamo di meritare l'onore. Ma e l'onere, stai a scherzare, per te, per Ayrton Senna soprattutto, forse per me anche un'ora oppure tutte e due, ci stava ampiamente, anche se poi primo maggio saremo in diretta, tra l'altro primo maggio c'è anche tanto calcio, ci avremo la finale della Champions da commentare, ovviamente, e chissà, forse quella della Juve, no? E quello vediamo, chissà, vedremo. Quello sono curioso. Beh, tanto ci accompagni là verso. Così ottimista, ti posso dire. No, partitaccia, la classica partitaccia. Anzi, tra l'altro, scusa, ti regalo questa immagine da chiacchiera da bar di stamattina, tornando sull'episodio della banana. Sì. Ma forse l'occasione persa è stata quella del guardalinee, che perché? Se l'avesse chiesto a Dani Alves di dividerla, davvero sarebbe stato ancora più rivoluzionario, Invece lui è rimasto... vogliamo a Portogallo, no, però è stato grandissimo il fatto, si è mangiato la banana, ha fatto il cross goal 2-2, anche quello non lo poteva decidere nessuno. Vi dicevo, primo maggio in diretta con Dario Ricci che ci racconterà Senna dalle 15:30 alle 16 noi saremo qui, così come torneremo subito dopo la borsa, perché abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarvi. 800 24 00 24 è il numero verde. Per Jorge Lorenzo che vince la gara e consegna il titolo al debuttante. Pedrosa secondo e Marquez campione del mondo. Il cabronsito c'è, ce l'ha fatta. Sembra ieri che con modestia diceva non ce la farò. Tutti convocati. Oggi il paradosso è piovuto spumante. Sì, prima ci pioveva acqua, poi per fortuna e anche per nostro merito c'è stata una grande festa, incredibile, bellissima, però credo anche meritata per tutto il percorso che abbiamo fatto in Euro Challenge. Se ti mancherà l'aria ti affitto l'America, Lambrusco e Bocco, non è così facile. Max Menetti, coach di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno. Quante bocce ne sono volate di Lambrusco? Beh, insomma, già normalmente siamo dei buoni consumatori, essendo... naturalmente amanti della buona gastronomia emiliana, anche reggiana. Sì, poi e poi c'era un'occasione particolare da festeggiare. A me lo champagne piace, devo dire la verità. No, ma piace anche a me, però piace. È buono anche il Lambrusco. Ah, come no. Comunque, può essere un buon segno questo, se qualcuno vuol credere nelle stelle, nel ritorno dello sport italiano a vincere qualcosa in Europa, magari può essere un buon segno anche per Antonio Conte. È dal 2009 che la Virtus naturalmente, che è una squadra italiana, non vinceva nel basket una Eurocoppa, tocca a Reggio Emilia. Coach, posso dirti che non sono poi così sorpreso? Beh, sì, mi fa piacere, vuol dire che credevi nella nostra, sì. nel nostro cammino, ecco. Ma io ho visto anche alle Final Four di Coppa Italia, cioè, ho visto la tua squadra, conosco i giocatori, insomma è una squadra di livello, cioè è un grande risultato, non è A, casuale per niente, B, è figlio di un progetto ben preciso, e guardando il valore di questa squadra mi sembra non sia neanche miracoloso. No, assolutamente no, è chiaro che in una Coppa Europea arrivare fino in fondo non è mai semplice, al di là dei valori che esprimono sia la squadra che alleni tu, sia gli avversari, perché comunque siamo dovuti passare attraverso almeno tre partite dentro o fuori, una vinta dopo supplementare, un'altra vinta a Samara di due punti, insomma, quindi è ovvio che ogni tanto ci sono quelle strettoie che poi dove è facile inciampare. Hai parlato di Antonio Conte, ecco, basta solo pensare alla partita in Turchia della Juventus e dopo uno capisce per quale motivo poi dopo le coppe diventano difficili. E dall'altra parte è vero, abbiamo espresso anche bene, abbiamo fatto bene anche alla Coppa Italia, seppur eravamo senza il nostro play titolare Brunner, sì. Abbiamo solo avuto degli alti e bassi in campionato, ma anche quelli durante il nostro cammino qualche problema proprio di natura fisica probabilmente ci ha tolto quei 2-4 punti che adesso ci lascerebbero un po' più tranquilli per i playoff. Beh, le coppe si pagano, questo è indubbio, anche se io continuo a pensare, tornando a parlare con quelli del calcio, come siano molto spesso chiacchiere o alibi, cioè giochiamo troppo spesso, facciamo un sacco di viaggi, eccetera. Sono d'accordissimo eccetera. Con te, infatti noi questo alibi non l'abbiamo mai cercato, anzi sulla questione della stanchezza credo anch'io che se uno dopo che partecipa alle coppe delle coppe deve cominciare a parlare di stanchezza, naturalmente è già una mentalità sbagliata. Ecco, l'unica cosa, le 16 partite in più durante una stagione naturalmente ti alzano semplicemente il grado degli infortuni, naturalmente, sì. Perché sono quasi il doppio in più delle partite e naturalmente quella percentuale dopo ti toglie magari dei giocatori importanti come sono stati White, Cicciarini e Brunner per delle partite magari chiavi che comunque abbiamo giocato bene, ma per esempio noi abbiamo perso di una Brindisi, abbiamo perso l'ultimo tiro a Caserta e in entrambe le partite per esempio non c'era Cicciarini, che si è visto, certo, quanta importanza abbia in questa squadra. Beh, lo stress d'altra parte si paga quando si vuole giocare sui tavoli di quelli forti, quindi è un prezzo da pagare, sì. Ma penso si paghi anche volentieri se poi fa parte della crescita, certamente, anche coach Pianigiani, ecco, proprio una questione di mentalità, e credo che noi in questa cosa abbiamo fatto un ottimo lavoro proprio in questo. La stanchezza non c'era, soprattutto era proprio una questione di preparazione mentale. Allora, io ti dico, quando Siena stava studiando la grande, ho questo ricordo, una domenica sera chiamammo ospite al telefono Pianigiani, che era a Mosca, era appena atterrato ma doveva andare, non so se a Vladivostok, non ricordo più, per una trasferta di coppa. Dico, coach, ma non è un po' dura? Questi sono i gradini da salire per diventare grandi, poi Siena è diventato quello che è diventata, perché è così. Assolutamente sì. Senti, assolutamente così. Io trovo che invece che la tua squadra sia quasi paradigmatica sull'idea che c'è dietro, perché italiani giovani sì, ma bravi, perché anche questa storia devono giocare gli italiani bravi, e tu, ovvio, certo. e tu ne hai qualcuno, sono anche giovani, meglio ancora, e poi si vanno a prendere giocatori che contano come Kaukenas, che non è né italiano né giovane ma è uno che ti fa vincere, come Brunner che è uno sicuro, e come James White che è un giocatore che a me fa impazzire, è un giocatore che mi piace di più nel campionato italiano probabilmente. Ma sì, ma anche questo è stato un nostro percorso, perché noi eravamo partiti dallo scorso anno dove eravamo la vera cooperativa dei canestri, ed è stata un'annata magica, l'annata più bella della storia della pallacanestro reggiana, dove in realtà avevamo tre giocatori che erano Cicciarini, Brunner e Taylor, e tutto il resto della squadra, diciamo, che era così, insomma, una squadra collegata a questi tre giocatori. Per migliorare abbiamo cambiato, abbiamo fatto anche delle scelte abbastanza dolorose, per dire, perché comunque la divisione che c'è stata in modo consensuale da Taylor non è stata semplice. E abbiamo messo dentro naturalmente anche giocatori di personalità. Ecco, quindi il cammino non è stato semplice, perché naturalmente bisogna conoscersi vicendevolmente, i giocatori, l'ambiente, e noi conoscere i giocatori, però siamo andati oggettivamente su delle ottime persone. Kaukenas, avete visto, insomma, non aveva bisogno di venire a Reggio Emilia, ma credo che ancora una volta abbia dimostrato che campione sia, soprattutto a livello mentale, oltre alla bravura tecnica che è assolutamente indiscussa. E James White, piano piano c'è stato questo innamoramento reciproco tra la piazza e lui il contrario, che è stato molto positivo. Beh, poi Brunner, ma non dimenticherei anche Angelo Gilli, che è rientrato dall'esperienza a Milano con grande entusiasmo, e poi ha detto bene, i giovani che abbiamo avuto, credo, grazie soprattutto alla società, alla lungimiranza di far crescere attraverso dei percorsi giusti, e quando i giovani sono bravi e volontarosi e si preparano i giusti percorsi senza aver fretta o le smanie, ma dandogli campo, però coach, dandogli campo, perché gente come Cervi, Pini eccetera, si vede che è gente abituata a stare in campo, cioè gente che non fa soltanto allenamento, e quindi sono funzionali quando ti servono. Assolutamente sì, ma anche questo vedi nel nostro percorso di campionato, naturalmente nel nostro percorso in trasferta è stato molto chiacchierato, perché oggettivamente una squadra che perde solo due partite in casa fino a questo momento e ne vince solo tre in trasferta, insomma è ovvio che c'è qualcosa, però è evidente che il campo dato ai giovani a volte lo fai anche in questa maniera qui, sull'esperienza, sul fatto della gestione dei possessi importanti, però è un percorso giusto, perché dopo ti porta a giocare partite importanti come quella della Final Four con giocatori che ormai sono pronti. Esatto, esattamente. Senti coach, adesso prossimo step? Step è Venezia. Venezia, una delle grandi delusioni stagionali insieme ad Avellino. Prossimo step però dovrebbero essere i playoff. Il nostro obiettivo assoluto in questo momento. Tra l'altro diventa davvero, dopo la vittoria della Coppa, un altro passo importante, perché naturalmente dimostreremo maturità. Ci mancano almeno una, ma probabilmente due partite da vincere sulle tre che abbiamo, e ne abbiamo una in casa con Cantù, e dobbiamo andare ad Avellino e a Venezia, che tu hai appena nominato, quindi è evidente che abbiamo un calendario molto difficile. Insomma, adesso bisogna mettercela tutta, ecco, perché se ci viene un attimo solo un attimo di gratificazione, non sarebbe veramente un peccato non partecipare ai playoff, soprattutto con tutto il bagaglio di esperienze che abbiamo fatto per arrivare fino qui. Sì, playoff che però rischiano di essere una corsa abbastanza chiusa da Milano, uscita come sappiamo in Eurolega, però onestamente mi sembra una squadra inavvicinabile. Poi tu mi dirai, alle Final Four di Final Eight di Coppa Italia abbiamo visto come è inavvicinabile, fuori come una ramazza al primo giro, però insomma quando le serie si allungano io credo sia troppa distanza in questo momento tra Milano e tutte le altre. Ma credo anch'io, purtroppo Milano ha avuto questa disgrazia degli ultimi due minuti di gara 1, su cui ha lasciato tutta la serie, perché è evidente che ha lasciato lo spazio al Maccabi di poter chiudere la serie, ma credo che il loro percorso quest'anno sia stato di veramente grande solidità, partendo dalla delusione anche della Coppa Italia, perché loro hanno veramente riniziato a macinare pallacanestro e vittorie anche da quella delusione. Quindi è evidente che sono stati però quest'anno capaci di costruire una grande stagione da una grande delusione. Credo che questo, ma non sono sicuro, ecco, noi non ho dubbi, quelli che dicono che Milano giocherà con la scimmia sulla spalla oppure avrà dei problemi dovuti al fatto di non aver giocato la Final Four. Insomma io ci credo poco, è una squadra veramente solida quest'anno, credo che lo staff tecnico soprattutto con Luca Banchi abbia dato una tale identità a questa squadra che dipenda veramente molto da loro. Forse una partita secca su una serie corta, diciamo alle tre come tanti anni fa, allora un po' di alea ce la metti, perché questo è vero, è reale, quella scimmia può essere pesante, ma su una serie alle sette, sinceramente, che io non condivido, a me non piace la sera alle 7, dico la verità. Se non ci siamo sbagliati nella nostra idea, credo che cominceranno già dalla prossima partita a dare qualche segnale, ecco, perché immagino, credo che abbia questa Milano, al di là differentemente da tutti gli altri anni, abbia un'anima, ecco, quindi al di là della bravura dei giocatori. Sì, è anche un'identità, perché fino all'anno scorso non capivi mai chi faceva playmaker, chi doveva tirare, chi doveva fare i blocchi. Quest'anno mi sembra che ci siano anche delle gerarchie precise, insomma, altra roba. Certo. Max, complimenti. Grazie mille. Mi raccomando, sotto di nuovo col vino. Assolutamente. Non molliamo la bottiglia. Ce la metteremo tutta. No, assoluto. Il Lambrusco lo vorremmo stampare delle altre. Certo. Ciao Max, buon lavoro, complimenti. Ciao, arrivederci. Grazie. Mille. Grazie a Max Menetti, allenatore Grissimborra Reggio Emilia, che ha alzato, viva Dio, una Coppa Europea nella pallacanestro Euro Challenge, battendo i russi del Triumph in finale a Bologna. Grande festa. Fiumi di Lambrusco, eccetera. Ci vediamo per il traffico, poi abbiamo un altro appuntamento. Tutti convocati. Facciamo un selfie, una cosa, portate le banane anche a Mughini, l'abate, Auriemma, che bello, è poco matura però. Ma si sa mai, non c'è grande qualità, ecco, saremmo anche in televisione, eh? Ci siamo tutti, ovviamente, metaforicamente anche a Roma, vi unite a gesto le banane, torniamo fra un attimo. Mi raccomando, gesto simbolico importante. Ecco. La banana. Come sapete, non siamo in televisione, ma banana l'ho mangiata prima e magari me ne mangio una pure adesso. Io, come sapete, sono un grande fautore del crossover su questa radio, tanto che insomma vorrei tanto condurre Cuore e Denari, non me lo fanno fare, ma insomma, prima o poi magari ce la faccio, anche una puntata solo, metà. Sono sostenitore del crossover e quindi ringrazio Gianni Minoli e ci presta Sara Tardelli da Mix 24. Ciao Sara. Ciao Carlo, eccomi, la quota rosa è arrivata anche qui, anch'io amo molto il crossover. Sì, il crossover. Hai mangiato le banane oggi? Oggi io le mangio tutti i giorni perché le banane vanno di moda, hai visto oggi, ma soprattutto hai notato la cosa che mi ha fatto piacere, no? Cioè? Che questo episodio così stupido che Dani Alves è riuscito invece a trasformare in un modo di fare addirittura politica intelligente, sì, che arriva proprio pochi giorni dopo la bufera che si era abbattuta sui Los Angeles Clippers. Come no? No? Come quindi no? Si chiude proprio il cerchio, cioè Donald Sterling, il presidente, dice delle sciocchezze più che razziste e insomma l'abbiamo fregato anche lui. Abbiamo fregato anche lui e penso che lo fregheranno ancora di più Donna Sterling, perché credo che questo sia soltanto l'inizio di una storia che in America ha già fatto un sacco di rumore e non lo vedo granché bene per quanto riguarda il suo futuro da presidente dei Clippers, da uomo d'affari eccetera, perché lì queste non te le perdonano, non giustamente. Perdonano. Poi hai visto, no, che sia i Los Angeles Clippers che i Miami Heat hanno fatto già riscaldamento con le magliette al contrario, sì. Insomma si stanno sostenendo. Qualcosa si muove, ma mi piacciono queste esternazioni che valgono molto di più rispetto, come ho detto prima, a un pallone tirato in tribuna, a un gesto eclatante come prendo il pallone, vado via, non gioco più. Quelle cose a me piacciono meno, mentre queste secondo me, ma ti dico, il modo per battere l'ignoranza è l'ironia, sono gesti magari piccoli però pieni di significato, quasi dei simboli. Questa è la foto che ti è piaciuta di più tra i mille selfie di questi su questo argomento? Come attualità politica quella di Renzi, che non ha perso occasione di farsi un bel selfie con Prandelli, ovviamente vedi il furbacchione. E poi, ma dai, un po' tutte devo dire, anche Balotelli mi è piaciuto, no? Perché lui che invece è uno di quelli che l'ha sempre molto patito il problema, no, del razzismo negli stadi, si sentiva l'unico preso di mira. Forse questo gesto di Alves gli farà fare un passo in più. Anche se la mangio, con la solita faccio un po' incazzata, un po' troppo incazzata, forse non è tanto credibile. Comunque, Sara hai sentito, no, tu ci racconterai ogni settimana qualcosa sui mondiali, qualcosa di subito sui mondiali. Siamo a -44 e stamattina hai fatto un colpetto di telefono a Toarish Capello, sentiamolo. La Russia sta diventando il protagonista numero uno nei nuovi equilibri mondiali. Capello, ma ci ha visto lungo quando ha accettato di fare l'allenatore della nazionale? Ma guardi, io ho deciso di venire in Russia perché mi piacciono le sfide. Mi piace qualche cosa di diverso, qualcosa di nuovo. Sono sempre interessato a viaggiare, sempre interessato a conoscere nuovi modi di vita, anche se la Russia non è lontana, è solo 3 ore e mezzo di volo dall'Italia. Soprattutto mi interessava vivere questo momento della Russia. Infatti, le volevo proprio chiedere questo, ma è un talento anche riuscire a capire, no, dove tira il vento, nel senso dove emergerà il paese che si sceglie, o no? Ma guardi, io credo che un paese in questo momento tutti vogliono venire, e tutte le manifestazioni più importanti sportive si svolgeranno in Russia e si stanno svolgendo in Russia. È un paese in grande evoluzione, c'è grande voglia di fare. A livello calcistico dovremmo fare molto di più. Senta Capello, però gli allenatori delle nazionali, diciamoci la verità, soprattutto quando sono stati molto bravi nei club come lei, dopo un po' si annoiano perché si gioca poco. A lei non capita? Ci si annoia un po' perché si va a vedere tante partite. Giusto oggi pensavo a questa cosa, dicevo, l'ultima partita l'ho giocata, le due partite, una a novembre, una all'inizio di marzo, e adesso rigiocheremo a maggio. Quindi vai a vedere partite sopra partite cercando di trovare i giocatori importanti per la tua nazionale, però sei sempre fuori dai giochi, partecipi poco. E poi improvvisamente fra capo e collo ti arriva la pressione di una nazione che vuole vincere, e questo è una bella scarica di adrenalina. Sì, improvvisa in 10 giorni improvvisamente tutto addosso. Senta Capello, ma per rivederla alla guida di un club dobbiamo aspettare che finiscano i mondiali del 2018 in Russia? No, guardi, io non ho intenzione di tornare ad allenare, ho questo contratto fino al 2018 e mi auguro che tutto finisca nel migliore dei modi. Abbiamo adesso i mondiali cui dopo 12 anni partecipiamo, quindi sarà molto molto importante per noi questa esperienza proprio in vista dei mondiali che giocheremo qui a Mosca. Nel frattempo ci sono anche gli europei dove dovremo qualificarti, quindi questi sono i miei obiettivi, non penso a un ritorno ad un club. Si è abituato alla vodka, al caviale? Al cibo, al cibo russo? Guarda, il caviale non si mangia più perché è protetto e difficile da trovare, e poi la vodka loro sono abituati tutti quanti, però io ogni tanto quando devo fare il famoso brindisi lo faccio, però no, non un bicchiere alla volta, ma un sorsino alla volta. Però lei è friulano, gli tiene testa. No. Cerchiamo di essere sempre sobri. Sempre sportivi, fino alla fine. Certo. Senta, ma che cosa l'ha colpita di più della Russia vivendo a Mosca? Che non se l'aspettava? Guardi, quello che stanno facendo, io sono 2 anni che sono qui, e ho visto una città, una nazione in piena evoluzione, stanno facendo tantissime cose, hanno tante risorse, lo sappiamo, però devo dire che mettono in atto la voglia di fare e lo fanno. Mosca è una città pulitissima, illuminatissima, io mi ricordo che la prima volta venni qui quando c'era ancora il Soviet nel 75, e poi sono venuto altre volte. In 2 anni c'è stata una grande evoluzione. Senta Capello, ma lei ha incontrato Putin, immagino? No, non ancora. Mai? Dovevo incontrarlo una volta, però era impegnato, non c'è stato. Sono sicuro, sono certo che Putin segue tutto quello che riguarda la Russia, tutto quello che può essere importante come immagine della Russia, come risultati sportivi e quindi risultati di immagine, di far vedere che si lavora bene e che si fa bene. Parma, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno Genta, buongiorno Pardo. Dica. Penso che lo stesso pubblico di Monaco, la gente di Monaco, questi miei amici con cui parlo, mi dicono che sì, loro hanno molta stima, hanno molto amore per Guardiola, amore nel senso lo stimano, ma non è il loro allenatore, non è il loro. Questo non solo la dirigenza, ma anche il pubblico, anche il spettatore, insomma. La notizia che c'è a Monaco è che c'è un allenatore italiano che loro considerano che voi probabilmente lo sapete anche adesso. Sì, no, ma se lo sappiamo, ma può fare quello che vuole, ma quello che noi sappiamo lo diciamo, io glielo giuro. A Monaco, sì. che secondo me potrebbe essere la piazza giusta per il suo gioco che fa. Sarebbe perfetto. È Conte. Io penso che naturalmente noi siamo qua, ognuno di noi, per dire un certo numero di fesserie. Vabbè, questa era l'ascoltatore magliettato di oggi. Sara Tardelli, se fai la brava, diamo una maglietta anche a te. Solo una? Una, a me non ne danno neanche una, che ne vuoi già due? Dai. Vabbè, scusa, non fare il tirchio, per favore. Io tirchio non ce l'ho. Gli uomini devono essere generosi. Ma certo. Ciao, un bacio. Alla prossima con Sara Tardelli. Invece, per venire qui ad essere convocati e parlare con noi ed essere opinionisti per un giorno, guardate il sito www.radio24.it, inviateci un file mp3 durata di 60 secondi con un vostro commento sul fatto della settimana. In questo caso sarà un pensiero al grandissimo Ayrton Senna. Franco Pentrini, autore di questo programma, con Claudio Schiattoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.